Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno, un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera siamo in collegamento con due ospiti. La prima è Vera Minazzi, editore di HBook, insieme a Sante Magnoli porta avanti questa casa editrice gloriosa, importante, raffinata. L'altro è Carlo Sini, poi ci raggiungerà una terza persona. Carlo Sini è un filosofo, è uno dei filosofi più stimati, più amati e probabilmente anche, diciamo così, quelli che sento più vicino tra i molti di questo mondo. Ricordo che l'occasione che ci ha portato appunto a telefonare, a incontrare queste due persone, Vera Minazzi e Carlo Sini, poi avremo anche uno psichiatra alla fine, è la pubblicazione di un libro particolare, straordinario per molti aspetti, Orchestra Invisibile, un libro che racconta un'esperienza, che ha una prefazione di Vera Minazzi, che è stato pubblicato da HBook, è appunto disponibile in questi giorni. Un libro con fotografie, un libro che racconta una storia musicale che ora ascolteremo. Innanzitutto cominciamo a salutare gli ospiti. Buonasera Vera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera professor Sini. Buonasera. Io l'ho presentata un po' così sommariamente, avrei dovuto dire l'elenco delle opere, ma come facciamo? Non possiamo questa sera, dobbiamo proprio dedicarci all'Orchestra Invisibile. Allora la prima domanda la farei proprio a Vera Minazzi, che penso abbia voluto lei questo volume e ha scritto anche la prefazione. Vera, che cosa è successo? Allora, questo volume, Orchestra Invisibile, è un volume che cerca di narrare attraverso un viaggio fotografico quella che è un'esperienza davvero molto particolare di questa Orchestra Invisibile, che è un'esperienza che si tiene ormai da oltre 10 anni in una comunità per persone autistiche adulte. È una comunità che si chiama Cascina Rossago, nell'Oltrepò Pavese, dove vivono con la loro particolarissima umanità 24 persone adulte con autismo. Sono persone che non usano il linguaggio, non usano la parola, il linguaggio delle parole per essere precisi, per comunicare, e in questa comunità, in questa farm community, insomma, è una fattoria sociale dell'Oltrepò Pavese che è stata pioniere di questo tipo di comunità in Italia e tra l'altro non solo, è un'esperienza appunto che nasce come un'esperienza pilota che ora è da esempio per altre comunità che via via si stanno cercando di creare in Italia. Tra le varie attività, diciamo così, c'è la musica, Orchestra Invisibile. Qui chi anima questa orchestra è Pierluigi Politi, che è lo psichiatra che sarà poi ascolteremo, sì, lo chiamiamo alla fine della trasmissione, sì. L'interesse di questa esperienza è che non si fa musicoterapia. Chi avrà il desiderio di accostarsi a questo libro vedrà che questa esperienza musicale è nata quasi in un certo senso per caso, nel senso che in occasione di un Natale alcune persone, alcuni psichiatri e altri musicisti dell'Università di Pavia, perché questa comunità Cascina Rossago è collegata, diciamo, in relazione con l'Università di Pavia, in particolare con il laboratorio autismo dell'Università di Pavia, alcune persone sono andate così per suonare, per fare un concerto in realtà per i genitori e per di queste persone con autismo, per le persone lì che c'erano, un'occasione così natalizia. E da lì si è visto invece via via che le persone, questi ragazzi, insomma queste persone autistiche adulte, avevano questa attenzione per ascoltare ciò che veniva suonato e anche nello stesso tempo per suonare loro stesse, insomma. Ma questo, diciamo che fare questa storia non è molto importante. Importante l'idea di fare questo libro su Orchestra Invisibile era perché abbiamo avuto l'occasione di avere un fotografo, che io nell'introduzione ho intitolato un fotografo su Marte, riprendendo, sì. Sì, riprendendo un'espressione famosa di un antropologo. Sì, antropologo su Marte, che di Oliver Sacks, questa espressione è resa celebre da questo neurologo Oliver Sacks, che narrando, e narratore, scrittore, narrando l'esperienza di Temple Grandin, che è forse la persona con autismo ad alto funzionamento, cosiddetto ad alto funzionamento, forse più famosa nel mondo, aveva proprio definito questa la propria condizione di spaesamento rispetto alla realtà, rispetto ai contesti interattivi, che a una persona con autismo risultano del tutto, diciamo, misteriosi e incomprensibili. Aveva narrato così aveva definito così la proprio stare nel mondo come un antropologo su Marte, quindi questo spaesamento. E nuovamente qui un fotografo su Marte, nel senso che Enrico Pozzato, che tra l'altro è medico e anche lui partecipa all'esperienza di Orchestra Invisibile, perché questa orchestra in effetti è formata da persone con autismo e persone non affette da autismo, anche da qui questa particolarità. Ha potuto nel tempo fotografare, quindi essendo all'interno di questa esperienza, però con rispetto, quindi dall'interno, ma riuscendo quindi a cogliere anche senza diciamo, violare quello che è anche la difficoltà che hanno le persone autistiche di entrare in contatto con altre persone al di fuori, diciamo, del loro contesto, o di la difficoltà del sintonizzarsi. E quindi la possibilità di avere questo un viaggio per immagini, e in fondo noi abbiamo deciso di usare anche le parole con estrema parsimonia in questo libro, di ridurre al minimo la parte scritta per far parlare queste immagini. Noi stessi del resto pensiamo per immagini, non solo le persone con autismo pensano per immagini. Adesso io farò un piccolo cambiamento e chiamo in causa il professor Sini, perché caro professore, se io le parlo di Zarathustra, chiaramente lei potrà tenerci una lezione che è infinita, ecco, però c'è un'opera di Richard Strauss che appunto era dedicata, così parlò Zarathustra, Also sprach Zarathustra, sì, di Nietzsche, certo. C'è proprio questo quasi silenzio prima dell'inizio delle percussioni, prima proprio dell'ondata dei timpani, che è diventata famosissimo per colonne sonore di film, per altro, insomma. Lei ci può introdurre magari un po' a questo mondo, secondo la sua sensibilità? C'è veramente Zarathustra in Strauss per lei, professor Sini? Ma c'è un'intuizione giusta, perché bisogna ricordare che la fine dello Zarathustra, soprattutto la terza parte, si conclude con un invito al canto, cioè Zarathustra dice: io sono il profeta di parole venture, ma di queste parole che devono venire, che saranno quelle dell'oltreuomo, io percepisco per ora soltanto, come dire, un'atmosfera e un canto futuro. Quindi c'è un invito a superare, diciamo così, l'intellettualismo della parola, l'intellettualismo della semplice riduzione dell'intelligenza verbalità a verbo, diciamo così, e a recuperare proprio le origini musicali della parola, quelle che stanno ai primordi di tutta l'esperienza umana e che accompagnano ancora l'esperienza umana. Io non mi meraviglio affatto di quello che è successo nell'Orchestra Invisibile, perché in fondo quello che lì è successo è naturalissimo, cioè siamo tornati ad un linguaggio gestuale, e il linguaggio gestuale del corpo è un linguaggio di ritmo anzitutto, quindi le percussioni, e sul ritmo poi si innesta il canto, la parola, l'espressione. Quindi è, come dire, è una scoperta così ovvia che non poteva che avere successo, salvo che appunto siamo noi che stiamo su Marte, no? Che crediamo che l'intelligenza sia fatta di parole scritte con l'alfabeto, no? Sta molto prima nella vita, diciamo così, ecco, no? Professor Sini, tra l'altro lei sta pubblicando le sue opere presso IACA Book, sta raccogliendo diverse delle sue opere, questa editrice, appunto Cevera Minazzi, con noi in linea, e lei ha toccato, penso, un punto abbastanza importante. So che Vera Minazzi, appunto, sull'inizio dello Zarathustra, su questo silenzio quasi primordiale che fa iniziare questo poema sinfonico, voleva forse aggiungere qualcosa. In totale appunto sintonia con il filosofo Carlo Sini, che ringrazio nuovamente per il capitolo magnifico che ha voluto far mettere in questo libro, e l'ho voluto coinvolgere proprio perché in fondo noi, va bene, abbiamo la moderna neurofisiologia dell'empatia che ci parla della consonanza intenzionale, parliamo della disposizione recettiva, abbiamo i neuroni specchio, abbiamo tutto questo che ci permette di comprendere, di indagare, però di fondo alle origini dell'interazione degli esseri umani ci sta questa, il ritmo, l'interazione musicale, ritmico, corporea, vocale, preverbale che fonda tutti noi. E tra l'altro, come Jacobu, che stiamo preparando un libro che si intitola Uomo e musica, che infatti anche qui con grande sorpresa sta suscitando anche grande interesse, indaghiamo in modo molto semplice come alle origini del nostro interagire, del nostro comunicare, del nostro, della nostra percezione, diciamo così, ci stia quello che possiamo definire il musicale in senso ampio, naturalmente, e questo è ben visibile e leggibile nel libro Orchestra Invisibile. Professor Sini, abbiamo un minuto di tempo, se io le chiedo un ultimo pensiero su Zarathustra per questa tranche, cosa mi può aggiungere? Ma aggiungerei, in sintonia con quello che diceva Vera Minazzi, che si va dalla danza alla scienza, non dalla scienza alla danza, no? Quindi i neuroni specchio sono un nostro modo di analizzare e tradurre in un vocabolario scientifico quello che prima accade nel commercio della vita, nel rapporto ritmico che noi abbiamo già con la madre nel ventre materno, col battito cardiaco che sentiamo molto prima di venire al mondo e che è il ritmo che poi ci accompagna per tutta la vita. Certo, e questo ritmo noi lo ritroviamo appunto in questo libro, nella ricerca appunto, nei gesti, nelle situazioni di questo libro, in questa Orchestra Invisibile, che ricordo è pubblicato da Jacobook e è un libro che costa 25 euro ma ha un servizio fotografico che è veramente strepitoso, una documentazione unica. Professor Sini, lei ha scritto La comunità, l'orchestra e la parola, un breve saggio intensissimo proprio in questo libro. Cosa possiamo aggiungere alle sue parole, professore? Ma vorrei dare una notizia in più a chi ci ascolta, cioè l'insistenza che anche Vera Minazzi toccava. Qui la musica in questa comunità non è trattata, diciamo, psicologicamente o da un punto di vista terapeutico, è trattata in una forma di pratica, cioè si fa musica, così come in quella comunità si fa lavoro, non perché il lavoro curerebbe delle deficienze, ma perché il lavoro è il fondamento stesso dello stare insieme, e allora diventa sensato perché se ne ha bisogno, diventa sensato perché uno soccorre le inadempienze o le insufficienze dell'altro, si va tutti per una medesima via per lo stesso risultato, e questo è il simbolo del fare musica insieme. Dobbiamo arrivare tutti alla stessa battuta finale, no? E quindi non è questione di usare la musica psicologicamente o psichiatricamente, ma di fare dell'accordo nel suonare insieme il senso di una comunità umanamente intesa. Bene, allora sentiamo Vera Minazzi, penso che abbia qualcosa da aggiungere. Non so se lei ama Shostakovich, se ama questa jazz suite. Sì, io amo moltissimo Shostakovich, e questa jazz suite invece a me fa anche venire in mente, questo, come diceva Carlo Sini, un'immensa nostalgia e uno struggimento misterioso. E mi ricorda in realtà anche per similitudine le musiche che vengono suonate al pianoforte da una di queste persone che fanno parte di Orchestra Invisibile. Noi abbiamo scritto un brevissimo, due righe su questa persona, il capitolo si intitola Un mistero della natura, perché questa persona, Simona, è l'unica che suona il pianoforte, gli altri appunto usano percussioni, e lei invece pare abbia messo le mani sul pianoforte quando aveva pochi anni e abbia cominciato da lì a fare dei suonare di temi brevi ma molto complessi, in realtà anche rarefatti, che vengono ripetuti, e ancora oggi, a distanza di moltissimi anni, continua a suonare questi stessi temi che sono variati ben poco. E Pierluigi Politi ha registrato e poi trascritto questi temi, forse ne parlerà poi, registrati, trascritti, ci si è accorti che poi queste piccole variazioni in modo da proprio nella logica dell'elaborazione motivico-tematica e sull'onda probabilmente di nostalgia, anche ricordi, reverie dell'infanzia, sono emerse delle vere e proprie unità compositive che vengono assemblate durante queste improvvisazioni che Simona fa al pianoforte, insomma il grande mistero della musica che accomuna tra l'altro tutte le persone che sono coinvolte in questo libro, non solo le persone dell'Orchestra Invisibile, ma me personalmente come musicista, musicologa e appassionata di musica, Carlo Sini che è anche pianista e Pierluigi Politi a sua volta musicista, e quindi tutti uniti da questo grande anche amore per la musica. Professor Sini, lei è anche pianista dunque? Sì, adesso non esageriamo, ho preso un diploma in pianoforte quando ero un ragazzino e poi ho studiato un po' composizione, ma io sono un musicista fallito, però sono un amante appassionatissimo del mondo musicale. Beh, ma tutti siamo un po' dei musicisti falliti e da questo punto di vista, se lei vuol metterla così, perché anche i grandi musicisti si lamentavano sovente, magari alla fine della vita o in un certo momento della vita, di non essere riusciti a esprimere tutto quello che avevano in mente. Le ultime parole di Ravel, no? Ho ancora tante cose in testa, però era bloccato, santo cielo, con quella malattia terribile. Ecco, cioè, tutti siamo un po' dei musicisti che hanno cercato un sogno, che hanno cercato una musica e poi abbiamo espresso quella che in fondo la sorte o le circostanze ci hanno concesso, insomma. Questo è così. Comunque direi che da un punto di vista pratico, lei è un filosofo perfettamente riuscito ed è un pianista che ha aiutato forse il filosofo, professor Sini. Sì, questo credo di sì, mi ha aiutato molto la sintesi musicale, no? Cioè mi ha aiutato forse a non essere troppo noioso come filosofo, ecco, diciamo così. Beh, i filosofi ogni tanto sono noiosi, vero? Ecco, e come? Ecco, mentre i musicisti lo sono un po' meno, no? Sì, con qualche eccezione, io ricordo sempre un grande musicista, per carità, che è Max Reger, che però è anche tanto noioso, poverino. Può capitare questo, no? Sì. Senta, ma una domanda, visto che abbiamo anche l'editore in linea. Gli editori ogni tanto sono noiosi, no? O non tutti sono noiosi? Noi alla Iacabuca siamo fortunati, abbiamo due editori che sono musicali. Ecco, ricordiamo anche l'altro editore che affianca Vera Minazzi, cioè Sante Bagnoli. Sante Bagnoli è di più di un editore perché è da sempre un uomo di grande cultura. Certo. Abbiamo perso un po' queste grandi figure di editori che sono uomini di cultura, no? E che hanno una loro linea, che scelgono delle cose perché credono in quelle cose e non semplicemente perché la moda va da quella parte o perché si spera di non andare in fallimento, ecco. Certo, ecco, allora, ricordato Sante Bagnoli, fatto un dovuto omaggio a Vera Minazzi che appunto è qua con noi questa sera, sentito Carlo Sini che difende anche, diciamo così, il mondo dei filosofi con diciamo una giusta misura. Questa sera stiamo parlando di un libro della Iacabuca e anche di un'esperienza che questo libro racconta. Il titolo è L'Orchestra Invisibile, Orchestra Invisibile meglio, senza l'articolo, e abbiamo parlato con Vera Minazzi e Carlo Sini. Non abbiamo molte altre cose da aggiungere adesso perché il professor Sini ci deve lasciare, e io volevo proprio un ultimo pensiero da lui proprio per questa esperienza dell'Orchestra Invisibile, questa comunità autistica dell'Oltre Po Pavese che comunica appunto attraverso la musica. Ma credo che sia un esempio che si potrebbe estendere ad altre esperienze della nostra comunità, cioè è un esempio pedagogico. I pedagogisti che non sono stati chiamati in causa nella fattispecie potrebbero riflettere su come si imparano le cose facendole più che non dicendole o leggendole, ecco. Bene, professor Sini, grazie per essere stato con noi. Abbiamo in linea il professor Pierluigi Politi, grazie per aver accettato questo invito, professor Politi. Lei ha scritto nell'ambito di questa Orchestra Invisibile, di questo libro, un bellissimo saggio che si intitola Strana malattia, l'autismo, e tra l'altro pone delle questioni molto, molto serie, molto profonde. Innanzitutto, buonasera. Buonasera a lei. Ecco, lei inizia il saggio con parole che mi hanno toccato. Strana malattia l'autismo, posto che di malattia si tratti e non più semplicemente di una condizione umana assolutamente particolare, in grado di mettere in crisi il fondamento stesso della nostra identità, quello di essere, da Aristotele in poi, animali sociali. Cosa possiamo aggiungere, professore? Non lo so, perché è già abbastanza complicato questo. Certo. Possiamo aggiungere che rispetto all'autismo noi sappiamo ancora molto poco, e quel poco che sappiamo si viene trasformando anno dopo anno. Allora, può forse sembrare limitativo dire che l'autismo non è soltanto una malattia, ma mette in luce alcuni aspetti della condizione umana, soprattutto quando si abbia esperienza di quanto soffrano a volte queste persone e soprattutto chi sta loro intorno. Ma può essere anche visto così, cioè come qualcosa che appartiene alla natura di molte persone. Avendo cambiato i criteri diagnostici sull'autismo, oggi dobbiamo fare i conti con una prevalenza della malattia nel senso di spettro, che riguarda una persona ogni 61, secondo le ultime stime dei Center for Disease Control di Atlanta, che non sono proprio gli ultimi arrivati al riguardo. Beh, quindi una certa presenza di autistici nel mondo. Non è un quadro raro, stiamo però parlando di spettro, cioè di un concetto ampio. Le persone che hanno partecipato all'Orchestra Invisibile, le persone che vivono a Cascina Rossago, appartengono invece alla coda della gaussiana più impegnativa dal punto di vista clinico e assistenziale. Abilitativo. Certo, ci ha dato perfettamente un'idea, di questo la ringraziamo. Senta, la musica fa qualche cosa, aiuta, compie qualche miracolo, oppure è un'altra comunicazione in questo mondo? Ma miracoli, ahimè, sulla terra se ne vedono pochini. La musica può essere molto utile perché i due pilastri sintomatologici di questa condizione sono un difetto della comunicazione e dell'interazione sociale e la presenza di interessi, quando non di attività, che sono ripetitivi e stereotipati. Allora, la musica è intanto una forma di comunicazione non verbale, e le persone con autismo spesso prescindono dal linguaggio verbale, per cui suonare insieme, come facciamo noi in cerchio, siamo un gruppo abbastanza grosso, è tra i 20 e i 30 elementi, e questo è abbastanza inusuale per persone che vivono la condizione autistica. Suonare in gruppo, insieme, cercando di andare a tempo, tutti insieme, senza parlare, attraverso semplicemente il linguaggio non verbale, cioè il movimento del corpo, il suono che si produce, gli sguardi che si intercettano, questa è un'esperienza molto bella, perché non è così frequente che una persona con autismo libri, vada a tempo con altre persone. E per contro questa esperienza interrompe a volte anche quella ripetitività stereotipata di psicomotoria, per esempio. Certo. Beh, grazie professore per questa sua testimonianza, poi io invito tutti a leggere questo suo saggio, Strana malattia l'autismo, contenuto nell'Orchestra Invisibile, accanto alle foto, accanto appunto a questa testimonianza. Sentirei da Vera Minazzi però anche gli appuntamenti che avrà questo libro, con Sini, con Politi, con lei, con altri. Quando lo presenterete, Minazzi? Beh, la prima uscita pubblica sarà tra poco meno di due settimane, oggi siamo il 3 maggio, quindi venerdì 15 maggio al Salone del Libro di Torino. E ci sarà il professor Politi, Enrico Pozzato, L. De Bandini, che è il batterista, che anche ha partecipato e partecipa talvolta a Orchestra Invisibile, e ci sarà in realtà un concerto per Orchestra Invisibile tenuto dal musicista jazzista Gaetano Liguori, che si è appassionato di questa, attraverso il libro di Orchestra Invisibile, a questa esperienza, e faremo assieme, insomma, sarà una specie di jam session improvvisata. E poi l'altro appuntamento, Vera, l'altro appuntamento, perché abbiamo pochi secondi. L'altro appuntamento invece sarà martedì 9 giugno, martedì 9 giugno presso la libreria Città Possibile di Acabuc a Milano, con Pierluigi Politi, lo psicologo della musica e musicologo Michele Imbertì, Carlo Sini, e poi tengo molto anche questo, che il 21 giugno a Parolario, che è un festival a Como, lì Orchestra Invisibile, che non abbiamo detto prima, ma insomma questo nome viene dall'invisibilità, ossia dell'impossibilità che sembrava di uscire, ci saranno anche alcuni, suonerà l'Orchestra Invisibile stessa all'interno di questo festival. Grazie a Vera Minazzi, grazie a tutti voi, vi do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21, un cordiale saluto da Armando Torno e da Vera Minazzi e Luigi Politi.